l'ascensore, i secondi mi sembrano ore, è il luogo adatto per parlare delle banalità. Ti guarda e ti chiede che piano, ma la signora del terzo piano ti parla dei figli, con le spese al braccio e del caldo che fa, sì, con la testa le tieni la porta, le dici buongiorno e lei va via e tu respiri. Antipatico del settimo piano non ti saluta mai, ho lo sguardo perso nel vuoto, io fisso le scarpe per terra, mi guardo allo specchio ed il tempo non passa, allora chiudo gli occhi e penso solo. Puzza, guardo a terra e ci vedo l'alone, è sempre il chihuahua del tipo che sta al quarto piano, ma sempre la pipì nell'angolo. Nell'ascensore essere enorme, finito il repertorio sul tempo, studio e il figli, guardo in alto le avvertenze della manutenzione, la portata è di 320 chili, se hai meno di 12 anni non puoi andarci solo.